Abbaito nuovamente, cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Grazie. No, nel computer, guardi, ci sono cose da comprare, da vedere, se conviene, se non conviene. Un po' di tutto, l'altro giorno stavo guardando delle scarpe che qui da Globo costano 80 euro, invece lì costavano 23 euro, una differenza uguale identiche, in pelle. Ho capito. Guarda, se mi ha capito, grazie, uno... un coso per il baracchino, una non alimentatore, uno vuole parlare la potenza. Rosmetro? No, BV 131. Un BV 131, ma cos'è un baracchino? Lineare. Ah, l'altro giorno ce n'era, non me lo stavo guardando. Ma poco gustavano, però erano belli grossi. E me ne passano 100 watt. E di 100 watt già ne ho visto, già ce ne sono. Io ce l'avevo, l'ho regalato. Cos'è cazzo, la gidrata due volte in macchina. Non facevo in casa da lui, se l'ha già arrivato. Quello l'avevo regalato, uno che ci aveva il caffè. Non mi ricordo come si chiama. Ehi, se lo vedo dopo me lo accendo a guardare, se ce n'è già te lo faccio sapere. Tanto a te ti serve, ma fa casa di chi? Lo farà male per casa. Ehi, già guarda, se c'è già te lo faccio sapere. Ma pochina. Però potrà pagarglielo nuovo. E dopo guardo, nell'usato, lì già ne avevo visto qualche. E Antonello ne aveva di quelli neanche, che si è venduti? No, vabbè, lasciamo perdere. Antonello ne aveva due, però uno era di Benito e quello era 600 watt. Se lo posso punirmi quello? No. Più piccolo già va bene, come quello che avevo io, non era grosso, era la catturetta, però già pompato, però con quello disturbato, già lo so, vabbè dai, guarda, se ne trovi me lo fai sapere, dai che mi hanno chiamato, ci sentiamo più tardi, dai, grazie. Ciao. Iniziamo, è la ora. Ho capito, desideriamo? Stava aggiornando. Ma cosa deve aggiornare? Il sistema operativo? Gli aggiornamenti che bisogna fare ogni tanto. Adesso sta caricando, adesso vedete. Cosa stai facendo? E io qui c'ho un vasoio di pasticcini, non so quale mangiare, non ne mangio niente, c'ho anche le pasta, però non ne mangio, non ne voglio. Banali, pere, mela, arancio, kiwi, mela, clementini, vino e frutta, non ne voglio, mi ho mangiato un arancio un po' pronto di tutto. Cipolline. Cipolline e frigorifero sott'aceto, cosa si chiama? Sott'uglio, di tutto di più mangiamo qua. E allora, vedrà, Leoncino sta sera, ha detto che appena vi fatto ancora. Sì, che fine ho fatto? La fine del coso ho fatto. Sono andato a fare un lavoro insieme a Franco l'altro giorno e poi dopodiché da una cosa all'altra, stasera fare spesa, roba del genere, sono entrato adesso. Io non l'ho vista, non l'ho sentito. Ok, già va bene. Cosa vuoi dire, Caio? Mi ascolti, sì? Sì, e ti sento. Mi sono incontrato l'altro giorno dove lavoravo io una volta, tanto tempo fa. E c'erano delle apparecchiature, baraccini, eccetera, eccetera. Stava parlando tutto, mi ha detto, il figliolo. Ah, fanculo, a me non lo sapevo. Dice, un anno che ci ho buttato tutto, Antonio mi ha detto. Non potevo tenerlo. E dopo te venire lo davi a meglio, ho detto. E ci ha buttato tutto, bello scemo. Lo so, c'era un apparato radiomatoriale, mi ricordo se era la linea Sommer, capo cosa cavolo ci aveva, tutto slampato, il figlio. Sono trovato un giorno, mi ha fatto in visita, perché l'apparecchio non lo volevo. E ci ha buttato tutto, Antonio mi ha detto, potevi venire, gli ho detto, va a far culo a te, gli ho detto. E ormai dice, ci ha buttato vicino l'anno scorso. Bel guasto, e la facciamo buttata al gitto. Ah, cosa l'ha dato, già lo sai, quello che ci viene il produttore, va a far culo, appena niente, là. Già lo sai come si chiama, che CB, era CB pure. Alba Rubic, tutto lì adatto. Bel guasto, chissà quanta cosa ci hanno messo a parte qui. Cosa vuoi dire, Caio? Non ci posso fare niente. Come l'avrei preso io, guarda. Mi avrei dato un coso, i soldi mi avrei preso io, guarda. Certo, non ci sarà cosa che va via, buona. E c'è lampato. Tutto lì adatto, mi ha detto. La segretaria, dicendo, anzi, prima ha telefonato a lui, mi sono fatto il numero di telefono, mi ha telefonato a lui. Si chiama Rafael Electronic Sat, Rafael de Vulgu, hai capito? E quindi va a fare un cuffia a casa. A un certo punto se la tonca, è in culo se la tonca. A volte che capitano le cose e se ne perdono gli altri. Bello scemo. Perché io vergogna, capito? Non so come gli altri che vanno a perire, uno è morto, vanno a recuperare la roba dei monti. Io ho vergogna su queste cose qua. E tu mi conosci, tu sei altrettanto più di me. Non ci vai a casa di un morto a chiedere la cosa alla vera o qualcosa del genere, hai capito? Io non mi sono presentato, 2 anni, pensavo che magari aveva conservato il figlio. E oggi, l'altro giorno, gli ho chiesto, ho detto, guarda, se tuo padre è totale. Ti ha lasciato quella roba lì, ha tutto a blocco, e me la prendo io. E invece nulla la va, no, dice, ho lasciato tutto, dice a cosa, mi ha detto. Allora, fero vecchio là, ci ha buttato tutto. Allora, gli ho fatto a far culo a te, gli ho detto. Aspetta. Sono qua tanto, sto sistemando, sto cercando una cosa adesso. Non mi ricordo dove ce li ho messi, cazzo. 2 caricatori, va a far culo a me, cazzo. A volte cascosavo le cose, ma come le ricordo. Luca, dammi te sei. No, sono qua. Sto mangiando due mandorle. Ce le ho io già sgucciate, ma non mi piace. No, mi sono sbagliato. Coso, Luigi. Me ne sono rimaste 2 col guscio. Non aveva le rossie, le avrei comprate. Fanno un ingrassare e fanno bene al polistirolo. Ehi, lo so, se ne mangi una al giorno quasi bene, ma le avrei comprate per lo bene. Vicino a casa, in macelleria. Vicino a casa? Sì, avevo qui, mi aveva portato anche in macelleria vicino a casa. Anche le portò tu? Sì. Ma mi viene a me se non finiva. Ma oggi l'è? No, è il 2017. Ah, prima di Natale, certo. Saranno gli agguati. Sono perfette. Sono buone comunque. Già lo so, ma tu me ne sono avanzato, stanotte me le mangio, tutte e due. Ma comunque la preseria la velocità di pedalietta. Non ce n'era lì, non ce n'erano né col guscio né senza il guscio, ma con quelle bustine sgucciate. Ma di lui? Ti interessa un Kalashnikov AK-47? Sì. No, io qui sto ammazzati. Bello, bello. Bello, bello. Quindi cosa mi ne posso dire? Non c'è pa' andare in guerra. E allora, se ti compri quello, poi ti devi comprare l'elmetto. E ci c'è l'abbigliamento. Ti bossate proiettili, usato, io sto guardando l'usato, 2700 euro, con una scatola di cantuccio, una scatola di ma che cazzo puoi andare, cioè gli avrei voluto andare col pozzicone, perché fa ammitragliatore col fucile, lo da caccia, c'è un cinghiale, c'è tu puoi tirare i bisogni. Ah, costa poco anche, là. Ma è usato, non è nuovo. Avrà una trentina d'anni, minimo, per come è composto. Vabbè, là, non mi interessa. Non c'è né guerra ancora, se c'era la guerra. Inventa tu la guerra. E ti faccia sei dalle negri e farli alla vita lì, la vita ricca lì. Basta carità, basta andare armato, ti dà pive. E te la macchia sotto il giubbotto. Se riesci a vedere cosa c'è. 1650 DSA MK2 R10 5.5. Ti interessa? Questo è 16 kg. Non ho capito, grazie. DSA MK2 R10 5.5. Questo è per i cecchini, ti apposti e spari. C'è anche il binocchio, il treppiedi, il poggiapiedi, che si mette in canna della fucile e lo appusti. Sì, è male. Ma sono le monelle spari, così è. Euro 1650, sempre usato, Questo è di Ferrara, Armeria Ferrara, Vigarano, Maimando, già, è un'armeria, la bocca di basso, vediamo qua, che è qui, troppo costano, sono belli ma costano un bel, Ermer Limagno, 850, certo, yeah, troppinina. Cavalli, dammi tu sì. Oh, è in campagna, minimo, sta portando, adesso fa dire da sempre andare a portare. Ho capito. Che innesca. Chi è che era? Chi era? Chi era? Avanti, avanti. Chi c'è? sanno mai fare le frittelle? No, grazie. C'era anche buttato di quelle là l'altro giorno. Perché tu te non ce li abbiamo mangiato, l'indomani non mi piace ne ce la gran parte. Oh, fino avanti, senta. E poi c'ho i dolcini, c'ho i dolcini e fate, e posso riprendere. Ah. Vabbè, roba fresca, no? E certo, i dolcini sono freschi, li ha presi da Cesaraccio. Le fate le ha prese in pasticceria. Di fraccherissimi. Non ne ho neanche mangiato io. Troppi dolci, si guastano i denti che non c'ho. Vabbè, tu usa la varecchina, una volta che mangi te li lavevo la varecchina. E allora li metto dentro il bicchiere la notte. A bagnomaria li metto. Avanti Bilibì! Avanti Bilibì! Non c'è nessuno, no! Tutti morti sono! Ci sono io e Don Luca! Buonasera a te e a Don Luca! Capito? Buonasera a tutti e due! Ma io sto provando, capito? Sto inciampugliando! Andrà bene, dai! Un attimino di corrisi, ti riprendi, poi non so io come è. Già siamo qua, quando sei disponibile, bussa e ti facciamo venire avanti, o se no vieni avanti e non bussare, capito mia? Sicuro, sicuro, dottor Graziano, sicuro. Posso fare una stazionaria, adesso c'è una stazionaria, tutti un cazzo un bel soldi. Visto, non è ogni giorno, no. Diciamoci la verità, hai cacciato tutti di là. Luca, sentite la bacchina, e lo mangiamo, sempre mangiamo, però bene. Ai, poveri noi. C'è la Bacchisio, sta facendo cosa? Ho capito. È entrato Bacchisio. Per adesso sta facendo cosa? Controllando il stazionario. No, ho capito, ma qua. Ehi, là. Io il baracchino a casa l'ho portato, non c'è più niente qua. Come mai? Lo sento alternata, grazie. A casa non lo fa, boh, non lo so perché. Adesso la provo con l'antenna, con la magnetica. Se non lo fa a casa vuol dire il problema è qua. È proprio con la magnetica, io l'ho comprata la magnetica. È una bomba ed è appoggiata e è andata alla ringhiera. L'altro giorno la stavo provando. Lo stile è 140. Vabbè. Quella va bene con le mie tutù, con la PLC800, va benissimo. Ah, oh, questa è un'altra marca, questa che ho comprato. Ed è anche bella. Dove c'è la carica è tra... si vede tutto l'avvolgimento. Attento mio hermano, vamos a ver se va scusando la Italia che va chiamando davanti. Luca, non ti ho sentito che ero in camera da letto e mi vuole mia moglie, cosa state dicendo? Attento mio hermano della Spagna, vamos a ver se va scusando la Italia che va chiamando davanti, amico. No, adesso no, che vado a levare la roba e c'ho fuori, spesso, se no si bagna con l'umidità. A dopo, amico. ¿Cómo está mi amigo? ¿Todo bien? Ok, muchacho. Adelante. Yo estoy aquí trabajando. Ok, amigo. Hasta luego. Chucuchu, chucuchu, chucuchu. Gracias. Hey! Senti, so, where are you ready? Ciao Bacchi, non mi tossi. Ehi. Ufo. Hey you. Non mi tossi. No, e tu non mi tossi. E cosa stai facendo? Sono al computer, tanto non c'è nessuno qua. Ci sei solo io e tu. Io, tu e le rose. Hey you. Tutti morti, tutti in fretta sono. Gianni Maria sta festeggiando. Guido è in giro in bicicletta. Squallo. A Platamo. Boh, Guido è... Guido è? Guido è femminile, quarantenni. O berlicenni. Boh. Sicuro, è sicuro. Hola, mi hermano, vamos a ver si va scusando, adelante. Atento, muchacho, escuchi qui, Rodríguez. No, muchacho, no, muchacha. Oye, voy, ahí. Hola, atento, Carmencita. Carmencita, uscita a fare il caffè. Carnetín se vale. Muy bonita Carmencita, muy bien. Muy male, pero Graciano. Muy male, vamos a ver a Luca. Hola chico, vamos a ver. No sé niente, cuando sabe nulla, muy débito. Muy débito. Graciano, me fai un conto, un assegno. Solo sto facendo la siesta. Siesta sto facendo? Io ero cognuno. Si può trovare un segno, Bacchi? Non sai che le... No, dico, si può trovare un segno, non un segno, no, un segno. Ah, un segno, lei andava puro. E ne arriva uno che... Il segno mi rimane. Da che mi scusi, i lunghi mi rimane un segno. Non è più di assegni, no. Oh, yeah. Sono segni e boh. Sono segni, caro Luca, sono sogni, ci sono assegni, no, sogni. Aspettando. Poveri noi, siamo poveri. Povero. Io mi stavo arrabattando poco fa con voi. Con una radio mi dà 1-1. 1-1 oppure 1-0-0. Allora, se ne metti un altro si dà 1.13, vai a capanni bene e tu qual ero giusto. Non lo so, io perlomeno qua non ne ho bisogno, non farò niente. Capito, solo se sarebbe posso parlare, in inglese nulla. Ho detto che qui non darò niente, qua uso questa qua e boh, capito. Con cosa stai uscendo questo? Uno stilo? O un portatile? Io sono portatile, non ho altro. Luca, ma dove siamo? Dimmi! Io ci vedo, andiamo alle macchie. No, non aggiungare ad andare a ciughista. Niente ciughiste. Ma poi ce l'hai che faccio vita? Più poco. Andiamo, io ti dico, mi quella raccoglierla, a chi non lo si insegna. Dico raccogli, tu la raccogli e dico quale. Ehi, aspetta. E la pinna di squalo non è arrivata ancora. Oh, il marito era nella litoranea. Di Platamona in bicicletta, tutto bagnato, tutto sudato, anche sotto la lingua era. Vabbè, il barista si è infuso, dove si era bagnato? Bagnato perché se l'ha fatto addosso. A questa svelarà, Uia! Chissà che arrivi a un traguardo. Sì, a primo classificato o l'ultimo. Oh, era per ultimo, era. Chi là era un vecchio di 90 anni. Allora, dov'è? Luca Vittorai. Cosa? A Luca in bicicletta. No. E che numero si crema in sala? Prima o poi si crema? Luca, cosa stai facendo? Saluto se me lo bei. Non ci sogno. Tutta Santo Paolo. Ma l'endoso. Oggi ho fatto il giro, ho portato i fiori a tutti, così imparano. E io ho fatto la croce per tutti, di legno, una per uno. E stati buttati pure un paio di bauli, prosa, di posizioni, di strada, laggiù butti. Cosa hai buttato tu? Cosa hai buttato? E ci ho fatto un fosso, l'ha giubbato, blonto e interrato. In abete l'ha giubbati, un soffoco d'arlato, intanto si rimane in tre. E ho aggiunto un pezzo di trattato, stavo invece dei cantieri. Anche tu pensi che si riprendesse un legno buono? E finché è troppo riccio d'arlato, così aiuta a mangiarsi un prima. Tutti morti sono sul canale 10, sul 23 e anche in PMR. Allora, prima erano morti da 27, ma non mi sono fatto. Guarda cosa ti dico io, va. Io mi ne futto e me ne trafutto, me ne pipo e me ne fumo, e me ne fumo pure a fuoco in Trento. Già mi sto giocando con le computer io, ma tu e io no. E io con che cosa mi sto giocando? Con la vecchia chita. No, capito, che piccina la di brigata, niente, andrà, oh yeah. Tanto mi fanno che mi dà puta a me ormai, ui, tante chi dà ragione. Dopo vuole entrare, e chi non può entrare? Canto, prende che qualcuno le vuole vedere, ma canto, ma prende che hanno la giubba assoluta. Allora, Bobo, Marino, ci sei? Giulio, mi ascolti? Sì, ti ascolto, come no? Ciao Giulio, ti ascolti bene? Sì, ti ascolto bene, molto bene. Ok, ti ringrazio, dai, ci siamo dopo, dai, non c'è problema. Ok, cosa stai combinando, perché? Qualche antenna hai piazzato? No, no, sto facendo una cena, fa a casa. Vabbè, è leggermente quarramato, però già ti ascolto. Ok, ti ringrazio, ok. Ok, ci sentiamo, dai. Vai, grazie. E chi era, Marino? Io non lo so. No, non era Marino. Anthony era, Anthony. E dai, tu? Antonello. Non c'è niente, tutto è stato dormire. Pacchisio. Sì, buonasera a tutti. Non c'è niente, tutto, io a dormire. Sì, per un sonno, che tu non, che tu canali. Oh, yeah. Ciao, Pacchisio, e te? Giornata l'oppia, giornata l'oppia. Adesso giù che mi sei venuto a tiro, mi serve un favore da te, mi devi fare un conto. Io mi sono perso. Ascolta, io devo coprire. Una parete di tavole sotto misura. 4,50 x 2,20. Quanti centimetri cubi ne devo comprare? Adesso te lo dico, aspetta un attimo. Capito, lo grazia. Devo fare il falegno. E guardate lì va. Non ripeto, sono una calzetta. Abbiamo fatto papo, sono fatto papo una biancata. All'interno ci avete fatto il cemento, all'esterno l'ha fatto in tavole. Per non vedersi il cemento, non avete messo le tavole e dopo lo continuo a fare. Ah, ok. Bene, stai aggiustando. 25 centimetri cubici. No, non si deve vedere. Siccome era fatta a tavola, le tavole sono marcite e comincia a vedersi qualche rotto di cemento. Cosa faccio io? Ne butto tutto dove stavo restando marcite, ci metto le nuove e dopo i dingo. 25 centimetri ne deve comprare. 20 centimetri cubi. 4,50 per 2,20 mi hai detto, così è. Spacchi! C'è delle cose, perché l'ho chiesto a un tuo collega, tanto mi ha detto, devo comprare 45 tavole sotto misura. No, assolutamente no. Io ti ho dato i metri cubi, ti ho dato un metro di centimetri cubi, 25 centimetri. Tu pensa che se tu ne metti di tavole sotto misura, ne metti 10 metri tutti uno attaccato all'altro, equivale a un metro cubo, pensa un po'. 10 metri, un metro cubo. Questo l'ho fatto un tocco. Guarda tavole, mi pare strano, facciamo il contio e le sballavo, ne uscivo 22, 23, 25, insomma due posti. Ma hai detto 2,20 m, così di larghezza, 2,20 m hai detto. 2,20 in altezza, 4,50 in lunghezza. Vabbè, è la stessa cosa, è un giambaluda. Ho accabbattato, ho cabinato, la cubatura è sempre quella, capito? Tu stai dicendo che li puoi mettere lunghi tutti interi 4 metri, così è, 4,50 m, ma 4,50 m deve pigliare le tavole prismate, perché sennò non le trovi, sono 4 metri sono le sottomisure. Se compri tavole prismate, quelle si costano di più, però a 4,50 m già ci arrivi. Ogni tavola è larga 12 centimetri, fatelo conto. Quelle prismate costano 3,90 € e rotti l'una, l'avevo già preso per la serva. E non conviene perché diciamo di una parete esterna, grezza, per coprire il cemento. Basta. Ti chiedo queste qui, poi ci do una passata di impregnante, una passata di guaina liquida e vai, stai finendo. Sì, d'accordo, questo d'accordo, ma ti sto dicendo, se tu devi mettere 4,50 m, se tu vuoi mettere tutte intere, ci sono le tavole, cioè le tavole sottomisure, lunghe 4,50 m esistono. E sono 2,5 di spessore e 12 cm di larghezza. Se invece sono da 4 metri, allora sono varie misure, non sono tutte uguali, non sono tutte da 12. A meno che non vai da Bricome a comprarle, ci sono lì da 12, o da 12 o da 10, sicché lo sai, fai un conto, arrivi a 2,20 m, lo sai quanti ce ne vogliono. Se sono 12 centimetri, arrivi a 2,20 m, quanto me ne vuoi? Fatelo conto, 12 centimetri, o meglio 220 diviso 12, sai quanto me ne entra lì? Sono giù, compro quelle grezze sotto misura che sono varie misure, non mi interessa la larghezza, compri quelle sotto misura da 4 metri, poi alla fine prendo e faccio pezzi da 50 e vado avanti, non mi interessa se non sono a filo, capito, basta che compra. Allora non hai bisogno di contarle nel tavolo, tu vai lì, dammi 25 centimetri cubi di sottomisuri, boh, basta, è così te da 25 centimetri, perché 2,20 per 4,50 fanno circa 25 centimetri, capito? e non hai niente da contare, anche perché cosa conti? Se ritauri i vecchi dalla Desi e vecchi dalla Lodi e vecchi dalla Otto, la sottomisura. Sicché non è che ti puoi prendere 45 tavole quando ti dà di sorriso. Chi sei andato imbecille, imbecille muri, non hai compreso? Tu devi andare lì e le dici al magazziniere, dammi 25 centimetri cubi di sottomisuri. E le misure sono varie, quelle da 4 metri, capito? O bacchi. Sono quelle che ci sono in cantiere per le edilizia, per fare il calcestruzzo, roba del genere, capito? Sono quelle lì, sottomisura la grezza. Sono varie misure, noi sono tutte uguali, cioè sono da 6, da 7, da 10, da 15, variano quelle lì. Appunto, perciò, proprio perché variano le misure, come fa uno a dire ci vogliono 45 tavole? Chi sono nato imbecille? Imbecille muri, a potetini, da categoria da me. Perché come fai? Uno dice 45 perché? Perché so che sono tutti della stessa misura e so che ce ne vogliono 45. Ma se tu vai lì a comprarle, le trovi da 8 cm, da 10, da 11, da 14, hai capito qual è il discorso? Sicché tu non puoi andare a dire dammi 45 tavoli, tu devi dire dammi 25 cm cubi di sottomisuri, boh, basta, finisce lì. E infatti io sono andato, ma ti volevo telefonare l'altro giorno, infatti sto lavorando, non discuto, ma stavo così. Da me l'intendo lo chiedo, No, mi sembrava molto strano la dicitura che ha fatto quello lì, capito? È molto strana. E vabbè, farei aver fatto il butto, vuol dire che... Pagate la ditta, che se che vuoi pensare a casa tua? Con la P come sta di nome, per caso? No, con questa. No, se c'è Piero già è più esperto. Appunto, mi meraviglia, perché Piero già lo sa, Piero già lo sa. Ma che sai, se mi fido che ti ragioni tu io, devi un buco mio, il nome, ma è un deficiente quando vado un conto del genere, perché le tavole sono di varie misure, non puoi dare un numero o così, a caso. Casomai devi dare una cubatura. Sì, gli ho detto, ma a me mi serve la cubatura, no, dice che compra, dice 45 tavole, queste sono da 10, da 8, da 12, ma poi superare la misura, oppure non poter passare. Sono da quello, se capisce Ghisu, è solo il troncaregno e basta, non è maturaccia Ghisu, Ghisu è solo un randaggio, non è maturaccia, appunto di lì. Sono andato a San Piero, no, ho visto che sia San Piero, solo mi aveva fatto San Piero un conto. Con San Piero confiniamo di cortile, siamo attaccati di cortile, capito? Appunto, Piero già è bravo, no, Piero già è uno che sa il fatto suo, perciò già lo saprebbe, già saprebbe consigliarti bene. No, ma se chi sono stati stupiti da 45, e se sono di chi c'è 45, se non c'è più 20, che sono da 8 centimetri, a arrivi, e se sono da 10 centimetri, a arrivi a 2,20 m. Ecco qua, oppure li superi abbondantemente. Il discorso è questo, no? Sicché tu non devi andare con un numero fisso. Con il numero fisso si va quando so che le misure sono tutte uguali. Allora sì, si va con un numero fisso. Se no tu li devi dire, mi occorrono 25 centimetri cubi di sottomisure. Boh, basta. Da voi che siano i 4,50 m, che siano i 4 metri, non ha nessuna importanza. Capito? Oh, perché tanto a te la misura è quella, 4,50, tu devi coprire 4,50 per 2,20, moltiplica 4,50 per 220 e il risultato per 2,5, vedrai che ti dà 25 cm circa, 24 qualcosa, tu ne pigli 25 cm e sei a punto. Ne piglio 30 e è più sicuro, magari qualche prezzo ti serve da qualche parte e via. Poi le tavole già sono sempre, non si perdono giù. Ah beh, se tu richiedi che poi li puoi usare, quelli che per prenderli, no, il problema non me ne so. Il materiale non si butta mai, già serve sempre, soprattutto in campagna. Fa la cuccia rugani, quindi lavori da fare. Per tagliare già c'ho l'attrezzo, dunque non c'è problema. Ok. Va bene, Bacchisio, andà bene. Grazie, fammelo tu un conto, Bacchisio. Attento, Giulio! Giulio! Grazie a te, tu! Giulio, dormitosi! Scusi a Luca, Giulio. A Luca chi? Luca Montanaro. No, non l'ascoltano. Giulio, mi senti? Adesso sì, ma un po' casi no. Vabbè, secondo dove mi metto, ma anche io ti sento in casa, dai. Eia, Gio Maria c'è pure. Non lo so, non l'ho sentito io stasera. Tu ti devi sedere sulla finestra quando parli con me, così almeno ci sentiamo. Anche se c'è freddo, non ti preoccupare. Giù, adesso come adesso non fa. Ma con l'accappatoio o senza? Con l'accappatoio, a petto nudo, come te ti piace, ma te si posato la telomacone. Oh, io sono uno scandalo, no, la sapigli. Vabbè, allora ti devo consigliare Graziano come devi fare, mi. Lui è uno di quelli che manda i messaggi su WhatsApp, eccetera, eccetera. Cata, se mi vede la finanza mi arresta. Non è importanza, non ti preoccupare, vedi che sei povero, non ti fa niente. Avanti, signor Bacchi. C'è uno come me che pesa 100, quasi 200 kg. Del nuovo quello grosso, quello grasso. Non ce la graziamo. È un fin da squalo, non c'è. Attento Nannigammi. Buonasera a tutti. Attento Nannigammi. Già ti arrego pure a te in Africa, vero Bacchi? Buonasera, Buonasera ancora, buonasera, c'è anche Giulio, Buonasera anche a Giulio e l'altro non me lo ricordo come si chiama. Vabbè, Luca, ecco, me ne sono commentato. Ok. Ciao, Tore. Hai capito a quel coso? Sempre contro di me, Viracca. Che dici un vozzo a negare un vozzo? Che ne dici un cottone, dillo a me. Sei vicino di casa di Graziano. Che dici l'ampura, una sagnarata per un vozzo a negare. Dale un bucone, dale, che fai prima, e prendi il manco. No, un bucone mi gusta troppo. Dillo a me, dillo a me. Niente, bello bene. Avanti, grazie. Dove sei con la diritta, cominci la bucina da quello lì. Sì, quando vengo io a casa di una dicono una macinellata e vado in vostra nega. Pensa tua moglie è contenta. Quella non la fare, bello bene. Le pelle mi sole. Cos'è, Bacchi? In un Graziano non si dà più le fritelle. Tanto si rimagna e non si rimagna. Io di fritelle già rusacchi, no. Già sono goloso, ma no, non anche su punto. Luca, tu lo assaggiate le fritelle di Graziano? Luca, deve darsi cutto già, se sei cutto a moglio. Con te, va. Giulio, avanti. Ok. Capito allora, ma chi? Se compri sotto misura più smart ti costano di più, ti costano. Però sono tutti uguali e sono già lunghe 4,50 m. Diversamente devi prendere quelli da cantiere, diciamo così, e da Brick come già ci sono, oppure vai direttamente da De Martis, mira pure Edu, pure De Martis, mira. E vedi un po' come ti piace fai. Se vuoi spendere di meno prendi roba da cantiere. Sì, serve roba da cantiere, Giulio, ripeto. Sì. Non devo rimettere la foresta, di quella fottimuta che liscia non mi interessa. Grezza, era grezza la rifaccio, va tutto. L'ho fatto veramente grezza. Mi stavo nelle azzurra, con le domeniche. Ci sono anche da 4 mesi, perché... Mi prendo per la serra, quello lì, no? facevo sul piede della terra. E ogni 2-3 anni bisogna sostituirle perché si marciscono la volontà. E le compro fuori da 12, diciamo 12 per 2 mesi o per 4 mesi. E costano 3 euro e qualcosa d'una. Allora, ci sono la Bri come costa? 3,40 euro mi sembra che costa, se ricordo bene. 3,40 centesimi l'una. E sono quelle da 12 per 4 metri però, 4 metri, non 4,50, perché è roba da cantiere. Mentre invece se vai nel deposito per legno di falegnameria, ti trovi anche da 4,50, però ti costa roba di 6 euro l'una di guida, e dunque non ti conviene, perché costano il doppio. Per cui ti conviene andare da Bricome. E sono anche belle, devo dire che sono anche belle, io le ho comprate da poco per fare controterrai, per il controterrai vanno benissimo, sono asciutte e tutto, sono anche dritte, tu te le scegli, te le puoi anche tagliare lì se per caso ti servono già tagliate per il fatto del trasporto, capito? Si fa la moto, carica la moto, carica quello... la moto, carica la moto, fa un viaggio, capito? Le macchine non puoi portare. In macchina ci vuole portapacchi, voluminose, no, lasci la macchina, paghi e te le portano lì con mezzo di trasporto, capito? Con mezzo di trasporto si fa tutto. Così è grazia, bisogna far mangiare anche quelli che fanno i trasporti. E cosa? Trasporti di cosa? Soldi, di soldi stiamo parlando. E la vera fai. Di andare alla banca di Giulio e trasportarli da me. Oh, Giulio, dai un poco di carraccio. Dai un poco di carraccio. E poi il discorso, fatto la mettere il pavimento, Giulio. No, il pavimento c'è rimasto adesso. No, il solaio lo sai che l'ho tutto fatto a Itoprec. Tutto fatto. Ah, è tutto intonicato. Adesso c'è da fare il pavimento. Adesso siete in terra in pratica, là. In terra, e allora, in aria, in terra. Va bene, dai. Andiamo a toccare, sempre per un buon pavimento. Problemi avevo. E lui, state fatto buoni complimenti, dice, per non essere muratori, dice, siete andati troppo bene. No, ecco, forse non hai compreso che i propri camuri non te lo fanno così bene, così liscio. Non perché non lo sanno fare, perché hanno sempre fretta ad andare in burri. Ecco qual è, e non so come funendimi, perché io i muratori li ho sopportati per 50 anni, visto e considerato il lavoro che facevo. Sì, vabbè, non sono tutti uguali, c'è quello più buono e quello più cattivo, non sono tutti uguali. E infatti non sono tutti uguali, no, quello è vero. Però lo più bravo non è, manco mano fare ancora, metto a poco. E lì c'è il problema. Non sono tutti uguali, ma hai ragione, quindi sono pure ancora più carenti. Però lo più bravo in assoluto non è, manco maniare ancora. Sì, vabbè, anche quello c'è da imparare. Anche quello, d'ora avanti. Tutto pensate di lavoro, lavoro, lavoro, ma lasciatelo a lunedì il lavoro. Secondo me siete... noi siamo siamo gente che il lavoro è il nostro avvenire, nonostante la mia età, è il San di Marchisio. Secondo me Tore si sente dalla voce che è dormito. Ma io? No. Tore secondo me è dormito, si sente dalla voce, è dormito ancora. Papà non è rientrato e mi dice che sono dormito. Secondo me sei dormito dalla voce, c'è una voce boh, strana. Che era sott'acqua. Ah, ecco, capito. Ah, è Babidu. E tu stai dicendo troppo, stai dicendo. Tore, beh, vai Vittu, vado alla pillella là. Senti che lui che mi hai visto a me. Senta, se la mamma vai a tenere i maschi, sa gira al gorso. E lui andava pure un lupo e si è fatto tardi, sai com'è, no? Riposino serale ci ha fregato. Uiuia. Aiuti, sei incurito di vino. Sono i macellai, so. Cos'è, Bacchi? No, sono sfilato dei macellai, era. Sì, la sfilata dei macellai, oggi c'era. Certo. La venera 1 e 2, sì. Ma no, questo non sono chiamato, ogni anno chiamavano. E arrivati lì dalla sfilata degli extracomunitari. Ah, Oh, grazie, chi si, vi ha passato tu, i miei, via, andate male, sono andati a Prosità, in Piazza Italia, chi dice che non li piace lo magna, che gli sono più parenti, gratis, e dice che fanno freddo, vuole un riscaldamento, grazie. A chi basta passare con un poco di benzina, non c'ero io. Cosa che non faccio in casa, non vuole niente, capito, la massa di infaria. Sì, insomma, ma ogni anno va chi, ma è già un po' mica non ci chiamano. Ma che bei chivi, è tutta Piazza Italia a Prosità a fare manifestazione. Ma chi c'ho? Dimmi so. È già un po' d'anni che non ci chiamano, È nato il caduto un dito. Eh? Quando è caduto con lo dito, il suo presidente che ci aveva fatto. Sì, cosa vuoi dire? Ormai la dovete facendo la barracca, qui c'è le strade via da casa. Poi avanti, grazie a cosa sta combinando di bello stasera? Nulla, mi ha sospendo il computer, non ve la nessuno ha il computer, ma sta va caricando, aggiornando, non la si tratta d'usa praticamente, era sempre aggiornati avanti. Domani, vai, l'ho lasciato aggiornare tutta la sera, adesso è pronto, però è già tardi. Domani è un altro giorno, E metto di inglese, cosa hai creato fuori sotto le cose? Sì, l'ho trovato il coso. In italiano, non c'è come mi hai spiegato tu, è tutto giusto, come ti dà il coso, la batteria carica, il coso delle, come ti si chiama, di quanti watt esce, e poi il numero, la frequenza e tutte quelle robe lì ti dà, e il rosmetro. E quindi, e già è tutto giusto, sì. Ok, allora, no, io ho provato stasera un'antenna con due radio, uno di verso all'altro, uno fino a 2.15, uno fino a 1.0. Ma c'è quello là, stamattina quello, il grande, stava togliendo il cavo, catami la dirà cosa. Guarda, è Giulio che sta mandando la corrente da rifugio. Giulio, tu l'hai guardato un correggiatore. Che cosa? Non ti capisco, alle volte non ti capisco, ma chi? Che arrivi con QRM e in certi momenti bene e in altri magari come ti muovi, come ti giri, cioè mi arrivi a scariche. Non ho capito bene, cosa dicevi? Sole, stavo staccando il chiodo dell'antenna stamattina, è arrivata la scossa, hai la corrente che dalle punte che è salita. Corrente elettrostatica quella, sì, e perché no? Certo che può succedere, è augurio. Non si sa. Evidentemente c'è stata qualche colpo di corrente elettrostatica che è stata la corsa. Un giorno io ho visto il cavo col PL per terra muoversi come un serpente o tore. Lo vedi, eppure non posso garantire che è così. Oh no, stamattina ne hanno tolto il capo per misurare, per attaccare il rosmetro, a vedere. Cata, me la zia corrente, me la zia. Ah, gli toccato, cosa è stato così diventato là? Sì, non è così. Si accumula della corrente elettrostatica ed ecco, però si scarica subito, non che ti buimineggiano, assolutamente no. Ma già si sente però. Giù, mi senti? Se mai lo posso dire da maniera mi piglio, attacco la massa, attacco al demosifone e la carrigheggio. Vabbè, che così, ma anziché attaccare al demosifone, meglio che c'è vite e fai il corto, fai il cortocircuito, fai un po' lo caldo, un po' lo freddo e si scarica l'istante e non rischi niente. Sì, vabbè, faccio con la maniera io, si pongo un cavo, se lo posso fare a fura. Vabbè, quello sì. Oh, sinceramente parlando, come regola tutte le antenne dovrebbero avere montato la massa a terra, perché è anche consigliata, solo che nessuno ne base, nessuno l'ha fatto mai, un po' perché viene male, ma sai, e qual è il discorso, l'antenna è una tela che abitudine, deve pulire 250 metri di sviluppo e portarlo alla massa a terra, insomma, e allora nessuno le fa. E infatti è quello, sono 50 metri di virus che devo punirci. Certo, è poco, è un bel. E appunto, è per quello che nessuno le fa, per quel motivo. Che vuoi che le fa, eppure sarebbe ideale, anzi sarebbe giustissimo farlo, perché in caso di avversità climatiche scaricherebbe direttamente a terra. Praticamente ti fa da coso, ti fa, come si dice, da parafulmine, in poche parole. E infatti fa così, fa. Dovrebbe fare così, ma se faccio un coso, il bongo attacca dallo demosifone e vede che non lo fa più. No, è pericoloso così, Tone, non attaccare lo demosifone. In questo caso la massa terra vuole indipendente da qualsiasi elemento utilizzatore. Deve essere una massa a terra indipendente. Non va bene, ad esempio, se no la massa terra verrebbe un buco di impianto elettrico, ma non va bene, assolutamente, deve essere una massa terra indipendente, solo, esclusivamente per l'antenna, per fare un lavoro come si deve, capito? Supponi il caso, tanto per fare un esempio, che c'è una dispersione in una lavatrice, in uno scaldabagno, insomma in qualsiasi, in una brancia, quello che vuoi, hai l'antenna attaccata e ti brucia l'apparecchio, hai compreso come c'è la musica? Quello sì. Infatti, ma secondo come mi decido, ci metto un cavo e lo porto da su, lo porto giù. Beh certo, così sì, così va bene. Lo puoi attaccare anche al palo mio, non è detto, basta che non sia arrugginito il palo, perché intanto l'antenna poi è sul palo della cosa, e va bene lo stesso, non ci sono problemi. Io te lo dico con cognizione di causa, perché ho fatto l'antennista per 12 anni, l'ho fatto quando facevo l'elettricista, poi ho cambiato mestiere per una questione di fallimento della ditta dove lavoravo. E allora babbo mi sta portando a fare un macodascia e lì ho continuato e ho finito lì. Per dire, però ti posso assicurare che è così, l'antenna ha bisogno, per essere un lavoro fatto alla perfezione, della massa a terra, indipendente da tutti gli altri utilizzatori. Quello sì, quello infatti vorrebbe da solo, vorrebbe. Però da 13 metri di cavo che devo scendere, se sono besso, ecco cosa è, e portarlo giù a terra. Lo so, appunto è quello che ti ho detto, che mi vuoi 250 metri di filo, mi vuoi. È per quello che viene male a fare una cosa del genere, però se proprio vogliamo fare le cose in regola deve essere fatto così. Però a fatti così non è vero che andiamo a dare solo a te. Vai, ma chi? Aspetta, sai come ha fatto Gio Maria, appunto una bacchina, un pizzo di ferro e l'ha attaccata a un pizzo di ferro, la bacchina. Sei convinto che funziona così? Vai, vai. Così, ma di tuoi, dove da fatto così, funziona, anche non funziona. Luciano. E Luca, con la buonasera ancora per voi, augurandovi un buon festival, partito da così tanto, anche il tuo regista, ascolto Pirolino, poi chiudo. Bye bye, vai Giorgiano. Ciao Marchisio, buona cena, buon tutto. Salutone al QRA, a domani, vai Giulio. Ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime, grazie a te per la chiacchieratina, avanti Tore. Sì, ci sentiamo Bacchi, magari domani se fa buono, se no a lunedì, andiamo, dai, ci sentiamo domani magari, ok. Ehi, noi domani ci sentiamo, ciao ciao, ciao ancora Luca. Ciao Marchi, buona serata, buona cena, dai, alle prossime. Ciao ciao. Ritornando grazie alla massa terra, non andare a batteria perché non ha il valore ohmico sufficiente per poter fare da attenuatore. Hai compreso che ci vuole un picchetto in profondità oppure una piastra, ci vuole con il capicotto ai quattro angoli, con trecciola eccetera, se no non raggiungi mai il valore ohmico o salvaguardante. Hai compreso come te la studia, dai a te la batteria indietro. A me me l'aveva detto Gian Maria che aveva fatto così, poi non lo so così è vivo. Tu lo sai che quando si fa la massa a terra esiste uno strumento che bisogna regolarlo, cioè devi valutare se arrivi a quella resistenza, se non arrivi a quella resistenza è inutile che vai a strubbiare lo scafo o lo coso, devi andare in profondità, devi andare, soprattutto in un punto dove prende umidità. Ad esempio non è che te la puoi battere in tua casa la massa a terra, deve essere all'esterno dove appunto prende umidità, perché se no non raggiungerai mai il valore salvaguardante, capito? Io l'avevo attaccato il filo, quando ce l'avevo spostata l'antenna, al filo di massa dove c'era collegata l'antenna centralizzata, siccome non c'era più e c'è rimasto fuori il filo di massa con il morsetto, l'avevo collegata lì, questa volta non ho collegato niente invece. Io so, però hai fatto un impaggio, ma attenzione, perché la massa dell'antenna, ripeto, vuole indipendente da qualsiasi altra cosa. La gente si è pagato mancanti che l'ha attaccata addirittura alla massa terra dell'ascensore in sette palazzi. Ma che se sono dei scellerati, non sono persone competenti, l'ha compreso? Qual è il discorso, Grazia? Ma io quel capo che c'è fuori all'esterno, dove c'era l'antenna centralizzata, quella era collegata all'antenna centralizzata. E l'antenna centralizzata non ce n'è più, però quel capo io non lo so se poi va, è collegato anche con la massa dove c'è l'ascensore, non te lo so dire. E solo quello lì io ce l'ho, però ne l'avevo saccato, non mi ricordo il perché. Ho capito, beh, evidentemente se non c'è attaccato più niente va bene, come stai dicendo tu, se non c'è nient'altro attaccato ed eccolo lì, è un contatto a massa, va bene, certo, hai fatto bene a non ascoltarlo, ma se c'è altra cosa attaccata non è consigliabile, perché basta una piccola dispersione ed ecco che ti può bruciare l'apparecchiatura, tutti in chivi, ecco qual è il discorso, capito? Uno prende un picchetto, fa la carriera e lo ficchi in terra, lo ficchi. Se per caso non dovesse riuscire a infilarlo tutto con questo picchetto, allora si deve fare una finta, diciamo così, come dire, un coso di cemento, ma te, se mi si vuole un tappo dentro, si vuole un picchetto, ci metti un poco di leva dentro, si buoni un poco di guga che tagnare la leva, in modo che il terreno rimanga sempre umido, e poi col tempo già sale l'umidità dal terreno e così diventa efficiente. E beh, certo, tu, non so se tu l'hai mai notato, ad esempio i lampioni che ci sono per strada dell'illuminazione pubblica, tu a Baida un paio di lampioni si vede la massa collegata a terra e vedi tu il filo, la trecciola, che la vedi proprio praticamente a livello di mattonelle, di marciapiede, e c'è un morsetto e deve attaccare la massa. Questo è quando è visibile, se no è interna, può essere anche collegata interna, va bene ugualmente, anzi, per dire no, per darti un'idea, e ogni lampione ha la sua massa a terra, tu vai da via e te ne rendi conto. E vabbè, vi trovo altro discorso. Avanti, Tore. Sì. Rimani così, rimani. Poi vediamo quando fa bel tempo. Vediamo cosa fare. Ciao. Riprendi tu, Luca. Eia. Ciao. Grazie, dai. Tanto anch'io sono mi alzo. Mangiamo, ci vestiamo e usciamo. Alla prossima. Luca, se hai diventato a me non l'ho sentito, ma siccome ho sentito quel messo ho pensato che hai smesso di parlare. Se va bene, dai, ciao, grazie, ci sentiamo allora, dai, alle prossime, ciao, vai tu. Ciao Graziano, ciao, stammi bene, mi Buona cena, ce la devi fare, se no devi andare piano, canutti, devi essere leggero, leggero. Catta, non t'abbuffare, Anda bene. Ok. E prendi giù. Ok, allora si mangia un mezzo chilo di vitelli, si mangia, due a posto. Sicuramente ne ha fatto un bel, ne ha fatto, e venna a culo, venna. Graziano, raga. Ma è normale che ce l'abbiamo, Graziano, se no l'avremmo dovuto inventare, tu. Sì, la si gaima è duburu. Anda, ve. No, anda. La si gaima. Lo so. Marino non si è più inteso, non l'ha più inteso, Marino. Ma boh, deve essere il tournée. Sì, da che ne è rientrata a travagliare, va poco tempo, a beso mio. Tra il traffico e tutto, non fai trendi. Infatti. E poi è il nipotino che la sera lo deve giocare, per cui non va a tempo. Vabbè, va. Tra un po' così andiamo a mangiare. Sono già quasi rotto, l'ultimo cuzinco. Per cui va bene così. Riprendito. Se no, esitiamo un po' garido. Quando si chiamano, se no, pazienza. infatti, Logia, bene o male già essere più puntuale la chiamata, per cui gli dà ragione. Intorno alle 8, 8, 5, 8, 10, siamo lì. Però ancora non ho sentito nessuna chiamata, perché da giù nel senso che io sono in zona notte, e la cucina è giù in tavernetta, capito? Per cui devo scendere quando mi chiamano. Vabbè, sarà così, sarà, ma piano piano già faremo tutto. Te lo credo, ci mancherebbe. Avanti Luca, canta che è bella voce, Luca del Monte. Non so se mi senti Giulio. Sì, se rimani così, adesso ti sento benissimo. Sì, no, vabbè, prima stavo salutando che vado a mangiare, dai, che esco. Devo salire a fare la puntura a mamma, anche, capito? Ok, vabbè, come sta a proposito, signora Caterina, Luca, come sta? Avevo sentito tempo fa che non stava molto bene. Già sta bene, dai, diciamo. Già sta molto meglio. Fa solo un'insulina adesso. Serve dare una regolata mangiando, dai, soprattutto non dove toccare i zuccheri. Quello sì, evidentemente quando c'è questo disturbo chiaramente bisogna fare qualche piccolo sacrificio. Vabbè, comunque già si vive bene lo stesso, è interessante mantenersi sempre con le regole prescritte, per cui già va bene, non è un problema. Guaio quando uno esagera, magari allora il discorso si complica, mentre invece se si tiene regolare come deve fare e a voglia, non vedo problemi, Luca. Chi è che non piacciono i dolci? A tutti, a lui via, non si sa. Perché la meravigliante c'è, gli allugrino che piacciono a tutti, certo. Siamo tutti golosi, ho voluto da qua. Vai Tore. Sì, andare. Non ti divertire troppo, mi Luca. Catta, che sennò poi domani mattina sei stanco, mi. No, io a mezzanotte sono a casa. No, ieri ho fatto adesso mezzanotte e mezzo, così mezzanotte e mezzo, no? Più o meno. No, non è un'idea difficile, almeno venerdì usciamo, là, giusto così, a stare in compagnia con degli amici, ma niente di che. Sì, vabbè, un po' di divertimento non ci vuole, non sei come te noi, no? Sono ancora giovane, Tore, lui è ancora giovane, cosa vuoi essere, 40 anni, 42, cantonà, per cui... È nel fiorfiore della gioventù ancora, devo immaginare, vero Luca? Sì, 43 sono, o giù. Credo che sia, 43. Se mi vinso io tutti gli anni di Gesù Cristo, devo immaginare. Tanto per darti un'idea, prova a contare, l'anno va via Gesù Cristo e aggiungere il tuo, e poi sai quanto ne ho io. Lo so. Vabbè, ci avevo messo la firma. Si sembra Luca, cantati da quasi 7 anni, la puoi, la prima non si basta più, la puoi allungare, vero so. Chissà, boh, andate, va benissimo, va. A me sono come te ne faccia mammi. Ah, ci sentiamo Giulio, Luca. Ci sentiamo alle prossime, magari domani. Ok, ciao. Ciao Tore, ciao, grazie per la chiacchieratina, dai. E anch'io scendo, dai, tanto anch'io adesso tra un paio di minuti ricevo la chiamata da giù, sì che io gli anticipo, così almeno risparmiano il fiato. Ciao Luca, ci sentiamo le prossime, grazie a te anche per la chiacchieratina, dai, a domani se coincide. Ciao, riprendi, io chiudo ascoltando il vostro finalino, vai. Ciao dai Tore, ciao, buona cena, buon tutto, alle prossime, ciao Giulio anche a te, alle prossime, buona cena, se ti vuoi la domani, sono alla prossima, ciao, buonanotte. Ok, ciao di nuovo a tutti, ciao. Ciao.